Condoleezza Rice, Condolcezza Rice, come viene chiamata anche con un pizzico di ironia negli Stati Uniti, rischierebbe di fare la fine di Colin Powell, quando nel febbraio 2003 il segretario di Stato si giocò la faccia e la sua stessa credibilità andando di fronte al Consiglio di Sicurezza dell'ONU ad elencare le ragioni per cui l'Iraq andava attaccato. Sappiamo bene che quella testimonianza con tanto di modellini e di segni sulle armi di distruzione di massa non era assolutamente vera. Ora, a mettere a repentaglio la propria reputazione e naturalmente per salvare quella del suo presidente George Bush, tocca a Condoleezza Rice, consigliere per la sicurezza nazionale, e, manco a dirlo, ancora di mezzo l'Iraq. La settimana prossima, la data è ancora ufficialmente da stabilire, la Rice comparirà di fronte alla commissione d'inchiesta sull'11 settembre ed il compito della Rice sarà convincere gli investigatori federali e gli americani che la Casa Bianca all'inizio del 2001 non aveva affatto sottovalutato Osama Bin Laden per concentrarsi solo su Saddam Hussein. Tutta questa polemica intorno alla commissione naturalmente non fa altro che il gioco di John Kerry, lo sfidante del presidente, che ha tutto l'interesse a tenere alta la polemica sull'11 settembre e costringere così la Casa Bianca a distrarsi dai violenti attacchi contro di lui. Intanto cresce negli Stati Uniti, come ci ricorda Bardazzi, la popolarità di Condoleezza Rice e addirittura pochi giorni fa è stato fondato in internet un fan club che ha lanciato per lei niente di meno che la corsa alla Casa Bianca nel 2008. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.